Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Si può definire Smart City una città che non è in grado di offrire i propri servizi anche ai cittadini con disabilità? La risposta è evidente, certamente no, anche perché siamo tutti destinati a diventare un po' disabili col passare degli anni. Quindi progettare tenendo conto dei vari tipi di disabilità vuol dire semplicemente progettare per tutti. Ne abbiamo parlato ieri sera. In un paese come l'Italia poi c'è anche un altro aspetto molto rilevante, perché il tema della disabilità non riguarda solo gli abitanti, ma anche i turisti. Attenzione che questo termine disabilità può voler dire tantissime cose. Insomma, ci sono disabilità molto gravi, per cui uno probabilmente fa anche fatica ad andare in vacanza, ma ci sono anche disabilità che non impediscono in alcun modo, no, di svolgere per lo più una vita del tutto normale. E per esempio basta guardarsi in giro, in una città d'arte tipicamente, per realizzare che una quota rilevante dei turisti è costituita da comitive di anziani o comunque da persone non più giovanissime che già hanno delle loro necessità specifiche. Se volete chiamatela nicchia, ma è bella grossa. Allora, dopo aver parlato di app e servizi internet più o meno accessibili ieri sera, questa sera parliamo di turismo accessibile, sempre con Roberto Vitali, che è tornato a trovarci. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, Roberto Vitali, presidente di Village for All, che in pratica è il marchio di qualità sulla ospitalità accessibile. Allora, Roberto, in che modo, cominciamo da qui, un turista con disabilità, con esigenze particolari, anzi diciamo così, pianifica la vacanza? Solitamente utilizzando internet, cercando informazioni e di utilizzare meglio le risorse che ci sono su internet, e molto spesso utilizzando anche il passaparola e l'esperienza di persone che hanno disabilità e condizioni simili, ma chiaramente che conoscono, non il generico un'altra persona in carrozzina, per capirci, a cui chiedere e fare riferimento alle loro esperienze e utilizzare tutta questa raccolta di informazioni, questi dati, e poi sicuramente utilizzare anche il nostro sito per trovare le indicazioni sulle strutture. Ecco, ma che cosa cerca quindi? Intanto delle informazioni di dettaglio, non delle informazioni generiche, no? Per esempio quello sulle strutture non ricettive. Quello che cercano sono le dichiarazioni di accessibilità, okay. Cercano le informazioni per comprendere se la struttura è in grado di soddisfare le tue esigenze durante la vacanza. Ad esempio, ho bisogno di sapere se quella struttura ha le porte dei bagni più larghe di 60 cm, che è la misura della carrozzina. Ho bisogno di sapere se l'ascensore ha una porta adeguata perché possa entrare. Anche la pendenza delle rampe, noi sappiamo, la legge dice che c'è possiamo fare le rampe fino all'8%, bisognerebbe capire quando si fa progettazione che oltre il 5% le carrozzine tendono a ribaltarsi e ci sono delle persone che hanno bisogno di pendenze inferiori per poter essere autonome e muoversi da soli. E per fare quella rampa, anche se la legge dice che come limite va bene l'8%. Per contro, mi pare di capire, non è che il disabile progetta la vacanza solo in funzione, diciamo, dei servizi a lui rivolti, cioè magari vuole anche andare in un bel posto per esempio. Se c'è una cosa di cui siamo certi è che l'accessibilità non è motivo di vacanza, cioè io non vado in un posto perché quel posto è accessibile, io poi quando vado in un posto vado prima di tutto per vivere un'esperienza, per conoscere un territorio, per incontrare le persone. Allora, se io vado in un albergo che è perfettamente accessibile, è il più accessibile che ci possa essere, poi quando devo uscire, ad esempio, mi trovo il marciapiede del comune dove c'è un gradino di 20 centimetri da quale devo saltare letteralmente dall'albergo per poterci arrivare, o non riesco ad entrare al ristorante, oppure non riesco ad andare allo stabilimento balneare, non riesco ad andare in spiaggia. La vacanza è fatta di un sistema e tutto il sistema deve essere accessibile. Pensa semplicemente al sistema di trasporto locale, io posso anche arrivare con un aereo in una grande città, poi devo raggiungere la destinazione, quando sono lì devo potermi muovere. Se tutta questa catena dell'accessibilità non risponde nella stessa maniera e non è tutta ugualmente accessibile, significa che la mia vacanza avrà dei buchi, avrà dei luoghi dove io non riesco a andare. Si trasforma al limite in un soggiorno in albergo, che però probabilmente non è il massimo della vita. Punto sto a casa mia, appunto. Che sicuramente è la più accessibile che ci sia, che è quella da cui sono abituato a vivere. E da cui provieni. Dunque, rilevanza economica di questo argomento, quanto conta? Quanto conta essere aperti, essere accessibili a tutti? Quanto conta un sistema turistico che è attento a queste cose? Guarda, il sistema statistico ci dice che abbiamo 4 milioni di turisti con bisogni speciali in Italia, ne abbiamo 80 milioni in Europa che arrivano fino a 130 con l'effetto moltiplicatore. Il valore economico che viene prospettato, la Commissione europea ci dice che il PIL turistico di ognuno dei 28 paesi della Commissione europea può incrementare fino al 15% se si lavora sul turismo accessibile. Tu pensa che l'Inghilterra, dove si sono svolte le Olimpiadi e le recenti Paralimpiadi, hanno dichiarato di aver fatturato oltre 2 miliardi di sterline di PIL turistico solo sul turismo accessibile. Ecco, e poi io non mi stancherò mai di ripetere, stiamo attenti perché, come dire, col fatto che la popolazione invecchia, tutti avremo qualche esigenza più specifica in futuro di quante non ne abbiamo adesso, e la gradinata che abbiamo sempre fatto ci sembrava la cosa più normale del mondo, a un certo punto può trasformarsi in una barriera, questo per fare un esempio. Dunque, a proposito di governance, l'hai tirata fuori tu questo tema, tra l'altro sei stato consulente anche del ministero, diciamo, competente per il turismo, perché in Italia non c'è... Abbiamo il ministro, ma non il ministero, perché la delega del turismo sì, è affidata alle regioni. Uno dei problemi, mi pare, è proprio la coerenza della regolamentazione sul territorio. Infatti volevo arrivare proprio lì. Perché ogni regione oggi ha competenza di legiferare in materia turistica. E in realtà noi ci ritroviamo con 21 ministri del turismo che sono i singoli assessori regionali di ogni regione. E la difficoltà sta nell'avere anche una linea nazionale di vendita del prodotto turistico italiano, e questo è un grosso limite al quale speriamo metta rimedio l'ENIT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo. Grazie, grazie Roberto Vitali. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, buona serata. Ciao. A domani.